Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoodi 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoodi 105 Archivio Bot. Fuori città, Luna Pop, 50 Special, siete su Radio 105, io non ho parole, l'ultimo giorno e già mi... Già mi immagino il casino. Girevole, non voglio più centrale. Ma che palco girevole? Ma possibile, sono 230 metri, ma che merda di palco è? Ho speso 3.000 miliardi, niente. Ma cosa sta organizzando, vorrei capire, eh? T'ho organizzato la festa di addio per me? Come, non esisterai più? Come? L'ho deciso io, sono il padrone dell'universo, sono l'uomo più ricco del mondo. Ma lei non è niente, dai, abbiamo già parlato con suo padre una volta. Suo no. Padre, poi chi cavolo sarà suo padre? Cos'è? Pronto? Lo sapevo. Dimmi, sono di nuovo tuo padre. Oddio. Sai, figliolo, ho riflettuto. Eh? E ho deciso di perdonarti. Grazie, papà! Lasciarti questo pianetino tutto in mano tua. Ma no! Perché riflettendo cosa? Ho capito che il problema del mondo è uno solo. Eccolo, dica. Sì, proprio quello. Quale? Quel barbone di Marco Mazzoni. Ma cosa? Quindi, anziché mandarlo in vacanza, lo spediremo sul pianeta Astruz. Ma no! Astruz no! Dove capirà? Interlotto. È veramente un barbone e uno struz. Ma non è vero. Ciao, Gigi. Un bacio dal tuo padre. Ma cosa sta dicendo suo padre? È veramente incredibile. Cosa? Mio padre finalmente ha capito la verità. Cioè? Che comando io, sì? E che tu sei un pezzetto. Ma no, dai, non è vero. Non si può chiudere un programma così. Ma suo padre è proprio quel signore là? Quello di cui si parla spesso? Quando succede qualcosa di male, parli con lui. Cose che non ti posso dire. Beh, certo. Però vai in onda in radio, capito? Violetta! Cosa? Barbone, ti do 3 milioni se te ne vai! Ti do 3 milioni! Che tristezza, eh? Oggi l'ultimo giorno di 105 Baywatch. Che ne sarà del povero piccolo Mazzoli? Che cosa capiterà a questo piccolo essere tanto tenero e dolce? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Non ti esprimi, Jimmy? No, ho già capito, vedo sul computer che c'è uno spot. Siccome oggi riviviamo un po' il meglio di 105 Baywatch, se ce n'era, se c'era un meglio di questo programma, uno dei prodotti che abbiamo pubblicizzato proprio all'inizio del programma era questa banca che ha ideato il dottor Inge, Jimmy, uomo più ricco dell'universo. Si chiama È un peccato bank, è inutile spiegare perché lo spot dice tutto da solo. Sentiamo, vai. Sei tornato dalle vacanze e sei rimasto al verde. Sei nel pieno di una crisi bulgara. Tranquillo, perché è nata la È un peccato bank. È un peccato bank. Non la solita banca. L'unica banca che ti presta tutto quello che vuoi. Ciao, sono Jimmy, padre fondatore nonché proprietario, sì, e capo supremo, uomo più ricco del mondo e dell'universo. Certo. Se stai ascoltando 105 è anche grazie a me che ci ho dotato di due orecchi. Se vuoi maggiori informazioni, entra nei siti internet della È un peccato bank. www.hotroppisoldi.it www.quantosonoriccoetmifaccioschifo.com www.donaldtrumpseiunbarbone.it Prova la È un peccato bank, certo, la vera banca del futuro. Sono talmente ricco che mi sono comprato da solo 30 volte, è incredibile. È un peccato bank. Sei senza soldi? Sì. Ti servo di soldi per finire di pagare la Duna Station. Quanto ti serve? 10 milioni? Pezzente, io ti regalo 254 mila miliardi, così stai un po' zitto. Ecco, è un peccato bank. E la cosa bella è che non me li devi restituire. Tanto sono l'uomo più ricco dell'universo. Barbone! Prova, ma è un peccato bank. Ecco, proviamola, è un peccato bank. È incredibile. Cosa? Sa qual è il problema? Quale? È che purtroppo c'è anche il peggio di questa trasmissione. Cioè? Lei. Lei è un bastardo. Volevo coucher avec moi. Dai, te quiero mucho. Oggi, oltre a farvi ascoltare il meglio e il peggio, visto che il peggio sono io, come diceva Jimmy, parleremo anche di altre cose. Ho trovato dei siti internet fantastici. Poi pare che lo Yuppie degli anni Ottanta ci sia ancora, non è sparito, soltanto modificato un po' le tendenze, gli usi e i costumi. Però secondo un esperto inglese è ancora in auge, diciamo. Ma adesso attenzione, giochiamo al gioco più famoso del mondo, il gioco più amato dagli egiziani. Il gioco! Muggisci e vinci! Devo spaccarla perché poi dopo non si sa se ci sarà ancora Muggisci e vinci. Chi lo sa? Bah! Dopo oggi, bah! Boh! Ma! Chiameremo Sassari per cominciare e Verona. Attenzione, sono gli ultimi Muggisci e vinci. Oddio! Sassari, attenzione. Fatemene uno artistico, vi prego. Ciao Marco! Oi! Sì! Chi è? Pronto? Pronto? Sì? Ciao! Guarda che ha sbagliato il numero. Come? Ma avete chiamato voi? Sei fuori, oh. Ciao Barbone, ciao, come Barbone, stai? Ciao Barbone, saluto a Santa Teresa. Tutto bene? Tutto bene. Senti, ti sono già esplosi i piedi? Sì, sì. No, ascolta, devo spiegare sta cosa e ti uso un po' come cavia. Vai, dimmi. Dalle 6 in poi, quando finirà 105 Baywatch, sì? Perché ormai è finita l'estate, quindi, sì? Ecco, esploderanno i piedi a tutti gli affezionati ascoltatori di questo programma. Ok. È un peccato, mi spiace, ti entrerà anche un Boeing 747 nella camera da letto, ma sono cose che succedono. Andrea! Ciao Marco! Ciao bell'uomo, ti regalo la maglietta di 105, un bacio! Ciao, un bacione! Ciao! Che brutta storia però, un Boeing lì proprio in casa sua, che tristezza. Vabbè. Le controindicazioni, capito? Andiamo a Verona, attenzione! Verona in corso. Muggirà o non muggirà? Va bene, la mia soddisfazione. Ciao amore mio. Ciao. Come stai? Adesso bene. Sei un po'... È l'ottava volta. Amore, non urlare, stai calma, ok? Siamo in radio, una radio seria. Oh. Maria, ecco. Maria Sole. Esatto. Cambiamo tono. Posso chiamarti Maria Sole? Con l'H finale. Con 10H. Ma amore mio. Senti, hai vinto la maglietta di 105. Sei un po' triste che oggi è l'ultima puntata o non te ne frega niente? No, mi viene da piangere. No, non fare così, ti prego. Non fare così, io sono un ragazzo sensibilissimo. Maria Sole, cos'è che succede lì? Mi sto suonando l'altra linea perché sono in ufficio. Ah, ma partecipi anche a altri giochi radiofonici, vedo. Brava, complimenti. E a sto punto ti devi rifare, Maria Sole. È il tuo momento. Sei pronta? Sì. Urla, ma a squarciagola. Qual è la radio che ti fa godere di più? 105! Brava! Ciao, amore. Ciao. Rispondi, vai. Musica e buon umore. Un raggio di sole per te, che sei lunatica. Niente teorie con te, soltanto pratica. Praticamente sono tornato a casa. Oh, oh, ti ho beccato con uno di colore. Oddio che dolore per te. Giovanotti, un raggio di sole, a Festival Bar ha spaccato, vai uomo, saluto Enrico, un bastardo dentro. Di già è finita, finalmente te ne vai. Pezzente, Barbone, un saluto a Jimmy, Enrico. Poi salutiamo, ciao pazze e biadesive, mi fate giocare a Muggisci e Vinci, Simone con l'H. Da Genova, poi salutiamo la torinese che ci ha faxato, Antonella. Poi Betta da Bologna con l'H, tutti con l'H ormai. Dobbiamo fare una pausa. Piccola piccola, restate su Radio 105 anche se l'ultimo giorno non cambiate adesso, c'è ancora un giorno, a fra poco. Fading like a flower. Roxette su Radio 105. Dicevamo che questo esperto inglese dice che non bisogna pensare che lo Yuppie sia sparito, è soltanto cambiato. Giusto, Jimmy? Lei che se ne intende, insomma, lei sarà stato Yuppie, immagino, giusto? Avrà seguito tutte le tendenze del mondo, le ha create. Bravo. Vedo che ormai vai da solo, però. Ecco, eh? Per esempio, negli anni '80 le scarpe che andavano di più erano quelle di Gucci, no? Cioè, se uno voleva fare lo Yuppie vero, doveva avere le scarpe di Gucci. Chi è Gucci? Oggi è uno stilista. Non lo conosce? Scusate, ma questo da dove viene fuori? È uno famoso in tutto il mondo. Oggi invece vanno di moda le Air Max, presente, no? Scarpe da ginnastica, eccetera. Una volta c'era la giacca di Armani, oggi non so, i jeans giapponesi, tutte queste cose un po' di tendenza. Una volta usava molto il telefono cellulare, oggi si parla più di lettori mini disc, eccetera. Bretelle rosse, oggi invece va di moda tra quelli Yuppie, diciamo, la valigia zaino. E poi musicalmente, non so, ai tempi c'erano i Dire Straits, oggi puoi paragonarli a Massive Attack, un altro genere musicale. È incredibile. Che cosa? Ma parla sempre lei, scusi. Non lo so, dica lei qualcosa. Però non c'era una cosa fondamentale. Cioè? Parrucar. Ha ragione, il prodotto del futuro. Io che ho pagato fior di miliardi, Rosario Pellecchia. Per diventare testimonial della Parrucar. Assolutamente sì. Ha ragionissimo, mettiamo lo spot? Adesso sto contattando un altro paio di persone. Beh, forse anche me? Sto contattando Ronaldo. Come Ronaldo? Ah, è vero, anche lui ha problemi. Sì. Certo. Cosa facciamo? Mettiamo lo spot? Mettiamolo. Sei senza capelli? Hai difficoltà di abbordare le tipe ai semafori? Un po'. Ti brilla la piazza cutanea sotto i lampioni? Eh beh. È nato Parrucar. Parrucar. L'unico parrucchino attaccato al soffitto della tua macchina. Al mattino sali in macchina e Parrucar si adagerà sulla tua capa pelata. Per tutto il tragitto sarai assalito dagli sguardi. Verrai chiamato Cappellone. A Cappellone! Ti sentirai un Richard Gere della strada. Oh tipo, da quando ho installato Parrucar sulla mia Honda CRX limona tutti i semafori. Io ho scelto il modello Bruno Lauzi, che ha anche i baffi che sono attaccati allo specchietto. Che figata. Parrucar esiste nei modelli Pellecchia, Biondi e tra poco anche Gilberto Giunti. Ciao, sono Nicola De Carne. Da quando uso Parrucar, mia moglie ha ricominciato a parlare. Certo. Ciao Rossana. Ciao Rossana, ma chi è questo? Attenzione, durante l'utilizzo di Parrucar, non agitare troppo il capo durante l'abordaggio per non risultare troppo spettinati. Parrucar, il parrucchino installato sul soffitto della tua auto, sì? È un'esclusiva, è un peccato corporativo. Perfetto, cosa facciamo? Cosa c'è, Jimmy? Sono contento oggi, non so perché. Perché me ne vado, vado in vacanze, per quello che lei è contento. Sì, perché un barbone finalmente se ne va. Ecco, uno solo. La smetta! Ehi, coccolati. Certo, in casa tua, di non solo gli Offspring, tutti i gruppi un po' punk rock in giro per il mondo, verranno tutti nel tuo salotto domani sera, ok? Ma piacere a mia mamma. Ma infatti, dille di preparare un po' di popcorn, anzi di accedere un po' perché saranno in tanti, hai capito? Sei stato. Senti, bastardo dentro, ti regalo il CD degli Offspring, Sì. E sarai contento. Sì. E visto che sei a Savona, sei vicino all'acqua, giusto? Sì. Ecco, mi spiace dirtelo, non vorrei dirtelo proprio io, però ti entrerà una nave da crociera nel salotto insieme al concerto. Una cosa. Sì. Senti un po'. Dimmi. Volevo dirti che se ritorni a New York, sì? Ti telefono di nuovo là. Va bene, mi fai muggito. Va bene. Okay. Senti, bell'uomo, un bacione, buona giornata. Posso dirti la radio? Ah sì, dimmi una radio. Una delle tante. Se dici una cazzata ti faccio saltare i piedi, eh. Attenzione a quello che fai, eh. Io direi Jimmy Network. Oppure Z100. Z100 ci sta anche dentro, va bene. Un bacione, ciao caro. Ciao, grazie, ciao, buona giornata, ciao. Ciao. Ti sei fatto coccolare? Se per caso anche tu hai difficoltà nel capire la tua donna, ho trovato un sito internet spettacolare dove hanno praticamente fatto il vocabolario donna maschio. Siccome si sa che la donna parla un po' la sua lingua, no? Per esempio, ci sono un sacco di esempi, tipo se lei dice sì vuol dire no, se dice no vuol dire sì, se dice forse vuol dire no, se dice mi dispiace significa questo ti dispiacerà. Bastarda. Oppure decidi tu, la decisione è ovvia, dobbiamo parlare significa mi devo lamentare di te. E tutte queste varie cose. Se anche voi avete difficoltà nel capire la vostra donna, andate nel sito www.freeweb, scritto free web, www.giorgiomastrota.org e lì capirete un attimino di più la vostra fidanzata. Ciao a tutti, io sono Giorgio Mastrota. Vuol dire che devo veramente tutta la mia carriera a Jimmy e soprattutto mi ha presentato i proprietari delle aziende che vendono materassi e pentole. Certo. E per me veramente tutti, lo ringrazio con il cuore. Ciao Jimmy, sempre così, io sarò sempre un tuo fedelissimo. Ciao. Ma Mastrota, anche tu. È veramente incredibile. Che cosa incredibile, eh? Le dirò, Mazzoli. Mi in dica. Fondo sono un po' triste. Perché? È perché mi mancherà, adesso devo trovare anche un sostituto al posto suo. Ma come? E sono molto triste. Ma io torno, non è che me ne vado per sempre. Sono circondato da barboni e quindi faccio molta fatica. Certo. A lei non se ne va per sempre? No, tornerò, penso. Eh no, perché la caccio io. Certo. Volevo salutare la mia segretaria che in questo momento è in viaggio. Sì, in treno. Beh? Si faccia gli affari suoi. Ah, gliel'ha già detto? Certo. Ah, già capito? Vi parlate tramite mente? Abbiamo un computer collegato. Ah, ecco. Salve. È un po' tamarro dentro qua, eh? Un po' più. Vasco Rossi su Radio 105 in diretta in tutta Italia con Mazzoli fino alle 18, ultimo giorno di 105 per i watch che da piazza. Oddio, non ce la faccio, non rendo. Gibba, aiutami tu. Tristezza. Dai, sii cattivo, forza. Dai. Mi dispiace che te ne vai, veramente. Guarda, lo vedo dai tuoi occhi, ti dispiace. Sì, dagli occhiali. Ecco, esatto. Noi tra poco giochiamo a Mugisci e vinci, quindi chiamateci da tutta Italia all'1678 26044, ma adesso parliamo di Formula 1. Bene così? Con chi ce l'ha, con me? Silenzio, per favore. Mi scusi. Stanno facendo... Cosa? Il check per il concerto delle 6. Il concerto? Che concerto ha organizzato? Vorrei Last sapere. Class 7. Come? Ah, anche loro ci saranno? Sì, non sente che stanno cantando? Sì, ma è un disco. Sono live in questo momento. Bravi, bravi. Barbone. Dobbiamo leggere un miliardo di fax, ascoltatori carinissimi. No, mi spiace, non c'è tempo. Ma dopo lo facciamo, dopo lo facciamo. Assolutamente. Dopo leggiamo i fax, dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito con tanto amore. E sta arrivando. Cosa sta arrivando? Sta arrivando. Non può arrivare niente. George Lucas e Steven Spielberg sono terrorizzati. Nessuno era arrivato a tanto. Certo. In Bulgaria tremano. In Polinesia urlano. Dopo il successo di La Mummia, arriva La Mucca. Certo. Non chiederci che film è, perché neanche noi lo sappiamo. Bello. La Mucca, presto al cinema e in anteprima su Radio 105. Mi scusi, Jimmy, a parte dobbiamo fare una pausa, siamo un po' in ritardo, ma come fa a uscire sto film se questa è l'ultima puntata? Io non ci sarò più. Ma infatti la cosa bella è che il film esce quando se ne va lei. È la cosa più bella del mondo. Su Radio 105 in diretta in tutta Italia con Mazzoli fino alle 18, ultimo giorno di 105 Baywatch. E attenzione, vuoi vincere la maglietta di Radio 105? Vuoi diventare anche tu un 105ista? E allora gioca con noi. Mugisce e vinci. Esattamente. Attenzione, mi sa che questo è l'ultimo, eh? L'ultimo della storia di 105 Baywatch. Non potete capire il mio stato d'animo. Chiameremo Udine e poi Roma. Se gli ascoltatori risponderanno con un muggito, vinceranno la maglia T105. Attenzione, Udine in corso. Ma vieni! Alberto! Sì, ciao! Ciao, bell'uomo, come stai? Bene, bene, grazie. Anche Federico. Ma in quanti siete? C'è anche Federico, c'è anche Federico. Ciao, Federico, due bastardi dentro in macchina, dove state andando? Siamo più o meno a lavoro. Ma dai, che lavoro fate? Siamo dei tecnici oftalmici. Ma in realtà fancazzisti, giusto? Eh? In realtà fancazzisti? Sì, praticamente, dai. Senti, ma il vostro capo non si arrabbia se voi fate queste cose per radio, no? No, è via. Ah, è via, quindi tranquilli. Senti, volete mandare a quel paese qualcuno, insultare qualcuno? Tanto è l'ultimo giorno, quindi si può fare quello che si vuole, dai. No, dai, non siamo dai, cattivi, dai, dai. Insultiamo il capo ufficio, dai, ti prego. Dove è Jimmy? Jimmy non lo so, è in giro. Boh, mandiamo lui in quel paese, dai. Va bene. Grazie, almeno due. Ma arrivano fax della serie, vabbè, Mazzoli te ne vai, tanto rimane Jimmy. Dico, vabbè, grazie. Senti, vi mando, vabbè, a sto punto dai, due magliette, ci allarghiamo, sì, dai. A spese mie vi mando due magliette di 105, bravissimo. Ok? Un baso. Ciao. Ciao bastardi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Dove andiamo? Roma? Roma in corso. Se la fantastica ascolta Mucca risponderà con un fantastico mongito, vincerà una maglietta e un recinto davvero a 105. Oh! Ma vieni, amore mio! Non ci posso credere. Nemmeno io li mortecci. Come senti, stai? Però ti devo chiedere una cosa. Io non voglio la maglietta, voglio il tuo pupazzo. Vuoi il mio pupazzo? Sì. Amore, ma il mio pupazzo fa le puzzette. E non mi importa niente. Cioè, tu sei disposta? Se non posso avere te, voglio il tuo pupazzo. Ma amore mio, tesoro, ma fa le puzzette schifose il mio pupazzo. Non ti interessa? Sei disposta a star lì e convivere con loro? Sì. Ma tesoro, posso chiamarti Roberta? Con 10.000 H. Oddio, tu lo sai che sei l'ultima ascoltatrice probabilmente del Mugisce Vinci di questa stagione? Sono felicissimo, ma solo per il fatto di aver parlato con te. Amore, senti, io passerei anni e anni, ore e ore, forse anche tutta la mia vita con te al telefono così. Però ti devo lasciare, mi emoziono, ma come rimaniamo d'accordo qua? Non so, amore? Sì? Vieni a piangere. Come, Marco, non posso credere che è l'ultima puntata. Poi facciamo beautiful qua? Te, Roberta, ti ho amato da un sacco di tempo. Io ti amerò per sempre. Anch'io, ma... è tutta colpa di Hernandez. Solo perché è più dotato di me. Torna da me, Roberta. Amore, ti devo salutare. Senti, posso dire qual è la mia radio preferita? Dillo. 105. Ti amo e tiriamo ancora. Ciao, ciao Roberta, Marco, un bacio, ciao, sulla Maurina. Ciao, ciao amore, ciao ciao. Tender, love me true, all my dreams fulfill. Robbie Williams, vediamo se Maria di Rovigo è veramente una fan di Robbie Williams. Mi fa un urlo di quelli da paura. Ciao. Amore mio. Amore mio. Come stai? Via. Mi mancherai un sacco, sai. Maria. Ciao. Come farò senza te? Ciao. Sei Maria. Fatto. Sono veramente sono andato a male, guarda, meglio che vada in vacanza perché sennò guarda. Ma ti ho mandato un fax per salutarti. Ma non sono, guarda, amore, ti giuro non ho mai ricevuto così tanti fax in tutta la mia vita. Senti qua. Senti che roba, cioè, ma veramente non pensavo, guarda. Perché non sei pensavo. Carino. Ma no, non è vero. Ma sì. Sento un rumore strano, pronto? Non lo so. Jimmy. È Jimmy. Sono a casa di mio padre. Come sei a casa di tuo padre? Infatti sono le 5 non e 49. Non senti un eco strano? Sì. Sono a casa di mio padre. Perché c'è un eco in casa sua? Sì, perché lui ce l'ha naturale l'eco. Ah, beh, ovvio, è lui. Non lo fa con la montagna. No. Cioè, lui ce l'ha proprio a casa la montagna. Beh, certo. Jimmy, mi sa che lei mi deve salutare. Scusa un attimo, Maria, tu stai per vivere un momento molto delicato. Cioè, Jimmy mi lascia, io lascio lui, adesso non so come funziona. È una cosa reciproca. Sì, è una tristezza, quindi devi fare un po' così da che cosa? Che parte può fare lei? Ma non lo so, delle denti da soli. Cosa facciamo, faccio Jimmy? Il terzo incomodo. Ecco, fai il terzo incomodo che c'è sempre comunque. Vorrei tanto venirti a salutare di persona, Mattoli, ma mi costa troppo poco. Cioè? Mi costa solo 3.700 miliardi di teletrasporto. Ah, perché lei adesso volendo potrebbe spuntare nel mio studio. Magari. Guardi che è sempre successo, ma lei non lo sa, ma è sempre successo. Cioè? Me lo Guardi dimostri? Posso farlo da un momento all'altro. Dai, me lo dimostri. Quanto tempo ci vuole? Quanto ci vuole? Ma ci vogliono 3 secondi, lei. Vabbè, proviamo, dai, io cronometro, ok? Metta giù il telefono, per favore, si faccia teletrasportare qua. Perfetto. Maria? Sì? Tu ci credi? Tu ci credi una cosa del genere? No, caro. Cos'è sto rumore? È veramente incredibile. Non ci posso credere qua. È veramente incredibile. Ma la posso abbracciare? Io... Assolutamente non ti permettere perché ti sputo in faccia. Non ti permettere neanche di toccarmi perché ti sputo in faccia. Dai, la prego. Assolutamente. Ma io non la vedo. Mi sono messo apposta questo mantello per farmi riconoscere. Certo. Perché il giorno che tu mi vedi, purtroppo non lo sai, ma devi morire. Ah, ecco, perché giustamente lei è... C'è questo tipo di problema? Senti, c'è anche Maria in linea che ha vinto il disco di Robbie Williams. E chi se ne frega, scusi. Vabbè, ma è la chiusura, capisco, ma siamo in ritardo. È veramente incredibile. Quindi? Come ci salutiamo adesso? Ma Sori, volevo dirti che non sei un barbone. Veramente? Non sei un pezzente. Veramente? sei veramente un uomo inutile. Ma perché? Sai che cosa mi piace come di umano? Te, Mazzoli? Cosa? Sai cosa mi piace di Marco Mazzoli? Non lo so. Niente. Sei un bastardo. Sei un bastardo. Sì. Non mi toccare. Dai, dai, fammi toccare. Aia. Aia. Fai male! Jimmy, vieni qua, dai! Non puoi toccarmi! Ma è un momento delicato della mia vita! Sono un essere soprannaturale! Io penso di amarti! Sì! Io ti amo! Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio BOC. Devo veramente dire grazie, grazie, grazie, grazie. È stato veramente bello. Grazie a Mary di Verona, grazie a Jordi. Grazie, Benedetta. O Bernardetta. O Bernarda, come ti chiami? Bernardetta. Bernadetta. Vabbè, insomma, quello che è. Grazie. Grazie a Beppe Lillo. Grazie a Paolo Bastardo Dentro. Grazie poi. Luana da Genova. Ciao Luana. Poi ringraziamo anche Fabi, cioè veramente abbiamo talmente tanti fax che ci vuole una settimana per leggerli tutti. Alessia, poi dov'è? Matteo, quello di prima, dice che vuole una ciocca di capelli di galli.